quando fui sui monti scarpati, miserere sentivo cantare. T'ho cercato fra il vento e i crepati, ma una croce soltanto la tua gioia.